Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il passaggio rimane sempre lì, alza il pallone alla grande sul secondo palo, c'è Lombardi, la mette giù, Lombardi sposta il pallone, poi crossa, autogol, la Lazio trova il gol del vantaggio, autogol e 2-1. Salah prova a far sponda per Dzeko e mette dentro il gol del 2-0, doppietta per Edin Dzeko. I just wanna stay in the sun where I find, I know it's hard sometimes. Spinazzola in uno contro uno, mette un altro cross, attenzione a Conti che va in rovesciata a metterla in porta, un gol fantastico, Atalanta avanti con Conti. E Caprari che con una spallata cerca di anticipare, di complicare, di disimpegno, autogol clamoroso di Palestra. Incredibile inizio di 2017 per Roger Federer, 1:35, 6-3 e 6-4, batte per la quarta volta consecutiva Rafa Nadal, 19 partite vinte, Open d'Australia, Indian Wells, Miami. Il cross per Belotti! Alla centesima, fa 23, raggiunge Dzeko! Appoggio per Falcinelli, area di rigore, Falcinelli, prova il sinistro, Falcinelli, rete! Rete! Falcinelli che gol! E 2-1 Crotone a Verona! Falcinelli! Il pallone a cercare Higuain che viene anticipato, non insiste la Juve. Si mette sulle pallone Chedira che va in percussione, poi scarica, chiede l'1-2, ne fa Chedira, rete, Juventus in vantaggio. Jorginho dentro, Hamsik di prima, Mertens dentro, Hamsik, rete, Hamsik ha pareggiato il Napoli. Ma io vi confesso che ascoltavo soprattutto la musica, oltre al riassunto sonoro confezionato da predimiata ditta Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Veronati, regia, Edoardo Lavezzari in redazione, per farvi capire il tenore degli umori juventini, almeno di una parte della juventinità di oggi. Vi leggo subito, anzi ti leggo subito, Pierluigi Pardo, buongiorno. Ciao. Ti leggo subito il primo WhatsApp. Allegri è un allenatore da calcio balilla. Vai, poi? Poi, un pezzo di una lunga mail che mi è arrivata, in perfetto stile hollywoodiano, con la contrapposizione tra il bene e il male, la luce e le tenebre. Gli allegriani, cui voi appartenete, e gli anti-allegriani, voi che affermate che quest'anno la Juve può finalmente sedere al tavolo a 4 in Europa assieme a Bayern, Barça e Real, e conseguentemente poter ambire al tanto agognato trofeo finale, non si può non chiedervi: ma ve la vedete voi le altre tre sorelle europee giocare a Napoli e non riuscire neanche a superare una metà campo come una squadra di C2 qualunque, come ha fatto ieri la Juventus? Due punti interrogativi. Vabbè ragazzi, ci sentiamo domani allora, dai. Sentiamo domani alle due. Sentiamo tutti domani, convocati. Tutti convocati, domani alle due. Musica, Ferronato, musica, vai con la musica. No, Pierluigi, allora, questo è uno dei temi di discussione. La Juve ha fatto una partita. Mi è sembrato un atterraggio pilotato, poi pilotato nel senso di un atterraggio morbido. Ha preso un pareggio in casa del Napoli. Ha preso un pareggio in casa del Napoli. Scudetto in una domenica nella quale Dybala non era al meglio, Cuadrado non era al meglio, c'erano parecchi problemi sparsi contro una grande squadra, perché insomma, voglio dire, cioè, il punto è: se la prima in classifica con 8 punti di vantaggio, che adesso sono diventati 6, sì, pareggia in casa della terza in classifica, allora o la terza in classifica non vale, sì, e invece secondo me vale, e vale molto, sì, oppure pur evidentemente non è un risultato da buttare via. Questo per quanto riguarda il risultato. Non è un risultato da buttare via, per quanto riguarda la partita, la Juventus si è trovata in vantaggio e poi c'era il Napoli. E poi c'era il Napoli. No, la Juventus è andata in vantaggio dopo 7 minuti, insomma, sei a più 8 dalla seconda in classifica e a più 10 dalla terza. Ma in vantaggio in casa della terza, oltretutto col ritorno in Coppa Italia il mercoledì. A me sembrava una gestione, sinceramente. Poi voglio dire, c'è la domanda di quell'ascoltatore lì che si risponde da solo, perché no, ma lui mi insiste, lo dica Genta che Allegri è un allenatore a calcio valenda. Non lo dirò mai, è un grandissimo allenatore, no, ragazzi, ma, se volete ne discutiamo. 800 24 00 24, ti riferivi all'altra mail, quella in cui si diceva nessuna grande squadra a Napoli, il Real Madrid a Napoli per 50 minuti ha sofferto tantissimo. Sì. L'abbiamo celebrato tutti, l'abbiamo detto. Una di queste tre sorelle, prosegue la mail cui tu fai riferimento, giusto qualche settimana fa ne ha rifilate 3 di pappine al San Paolo, ai Partenopei, 6 in tutto nel doppio confronto. Pensate che Barça e Real, Barça e Bayern non possono fare lo stesso? Anche qui doppio punto interrogativo. Ma che c'entra? Allora, alla Juventus sul fronte interno, secondo me, in questa stagione interessano ancora per il momento due partite. Sono la partita di ritorno con il Napoli, in cui deve blindare il passaggio in finale di Coppa Italia, la finale di Coppa Italia stessa, appunto. Il resto è ordinaria amministrazione. Sì, il resto è gestione. Perché il resto è gestione, bravo. Uno scontro diretto a Roma, benissimo. Juve, è chiaro che 6 punti. Io sono convinto che l'episodio chiave del campionato sia, ma non sto parlando dal punto di vista arbitrale, che la partita chiave sia stata Juve-Milan e poi anche Samp-Juve. Sono due partite nelle quali, insomma, la Juve si è messa al riparo da qualsiasi rischio in una fase di stagione. Mi ricordo, l'avevamo detto proprio in quei giorni, in cui la Roma aveva un calendario particolarmente comodo e infatti una Roma non brillantissima, perché insomma né contro l'Empoli né contro il Sassuolo né contro il Palermo è sembrata una squadra enorme, però ha recuperato e ha vinto comodamente, alla fine ha vinto comodamente tutte queste partite. Quindi io penso che ancora qualche margine, perché ci sia un po' di ciccia, come diciamo in gergo, no? Che ci sia un po' di dibattito su chi vincerà il campionato, ci sia, ma credo che la Juve sia nettamente favorita. Cioè, mi fa ridere chi ha tempo da perdere scrivendo Juventini mafiosi, continuate a rubare. Allora, rimaniamo su questo tema. 800 24 00 24. Io voglio dare 8 in pagella alla partita di ieri sera, che è stata interessante, all'arbitro Orsato, che è stato strepitoso, anzi gli do anche 8 e mezzo all'arbitro Orsato, e alla cornice extraparlamentare del San Paolo, perché è stata una serata di calcio tutto quanto nel complesso perfetta. Io sono, lo dicevamo, abbiamo parlato per una settimana, no? E poi tante volte sembrava quasi una frase fatta, invece lo pensavamo, eravamo straconvinti che fosse una grande dimostrazione di intelligenza, di lucidità, di dignità, di civiltà, e questo è quello che è avvenuto ieri, insomma, al netto ovviamente della rivalità che è enorme, soprattutto nei confronti di Higuain. Cioè, da un certo punto di vista, se fossi Higuain, non ci fossero stati i fischi, mi sarebbe quasi dispiaciuto. Nel senso, è ovvio che quando un giocatore va dalla seconda in classifica di un campionato nella rivale che è la prima in classifica, è esattamente quello che succede da Dortmund al Bayern, o che può succedere anche in qualsiasi latitudine, dal Real al Barcellona. Quindi è ovvio che ti becchi i fischi, ma i fischi sono quello che deve succedere. È successo, e Napoli, secondo me, ieri ha superato l'esame, ma non avevo dubbi sul fatto che superasse l'esame. Poi chiaramente sogno un mondo nel quale la trasferta di una partita di calcio in casa di una rivale non debba portare a chiusure di tangenziale, cordoni di polizia che sembra Obama. Questo in assoluto, ma non ti parlo di Napoli, Juve, Milan, no, Inter, Lazio, Roma. Penso che tutti noi sogniamo un giorno in cui tutto sia normale, non diciamo bello, ma normale. Però in tutto questo approfittiamo anche per fare i complimenti, oltre che ai tifosi del Napoli e alla città di Napoli, anche alle forze dell'ordine, hanno lavorato bene, hanno avuto liscissimo, mi pare, no? Sì. Allora, siccome la Juve ruba, vogliamo parlare della mega ladrata della Roma? Se volete ne parliamo. Questo è quello che scrive un ascoltatore. Devo dire che Massa non è in un gran periodo di forma, la Roma ne ha beneficiato, si danno e si prendono in questo sport come in ogni altro sport, questo di principio. dobbiamo fermarci per il traffico. Io volevo affrontare con te, ma poi lo farò, altri argomenti da Donnarumma, che probabilmente sta facendo i conti con la popolarità forse eccessiva, dalla nazionale ai fumetti all'essere l'uomo copertina del calcio italiano. Vorrei dirti che Empoli e Genoa in questo momento meriterebbero la retrocessione d'ufficio, perché sono insieme al Palermo le due peggiori squadre italiane, ma sono tutti argomenti che toccheremo anche con voi, se volete 800 24 00 24, tempo ne abbiamo. Tutti convocati. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Breaking News. Le 14:17 minuti, c'è una notizia che arriva purtroppo da San Pietroburgo, dove si è verificata un'esplosione all'interno di una stazione della metropolitana per cause evidentemente ancora sconosciute. Diversi feriti, riferiscono alcuni siti, mentre i siti russi parlano già di 5 morti e 50 feriti per la precisione. Tutti gli aggiornamenti in GR24 alle 15. Convocati. Allora, Pardo, allarghiamo il discorso a Massimo Mauro? Volentieri. Molto volentieri. Ciao Massimo, grazie. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Ti ho sentito ieri sera critico nei confronti della Juventus. Noi stiamo raccogliendo un po' di messaggi anti-allegriani, ma è sempre così da lunedì quando la Juventus non convince. Beh, stai trovandosi 1-0 nella partita che poteva chiudere definitivamente lo scudetto e non riuscire più a fare neanche un contropiede per una squadra come la Juve mi è sembrato davvero grave. C'è stata una grande prestazione da parte del Napoli nella fase difensiva, mi riferisco al fatto che non ha consentito a Marchisio, Piani, Cecchedira di far ripartire l'azione, no? E quindi sono stati bravissimi i centrocampisti, anche Koulibaly e Albiol a stare molto alti. Però questo non significa che, insomma, la partita della Juventus sia stata davvero non da grande squadra, non da prima in classifica, insomma, ecco, senza riuscire a fare neanche un contropiede. Non pensi che la Juventus stia gestendo comunque questo momento? Perché in fondo sul fronte interno importa adesso arrivare in finale di Coppa Italia, quindi la prossima partita con il Napoli. Allegri non mente quando dice questo, e la finale di Coppa Italia stessa probabilmente contro la Lazio. E poi è tutta una prova generale forse per la partita che tutti hanno in testa, per le due partite che tutti hanno in testa, quelle con il Barça, no? Sì, tutti i discorsi sono possibili, però voglio dire, quando Higuain prende la palla e corre verso la porta, l'ha fatto 2-3 volte, e non trova uno scarico per poi riprendere e tentare di andare a far gol, significa che insomma la squadra non ha supportato quell'azione lì. Non c'entra con i discorsi che poi possiamo fare finita la partita, cioè durante la partita la Juve non ha avuto la forza di impensierire più la difesa del centrocampo del Napoli. Il Napoli strameritava, secondo me, il pareggio e poi anche la vittoria, perché poi la difficoltà del Napoli ad attaccare una squadra tutte 11 dietro la linea della palla, io quelle partite lì me le ricordavo ai miei tempi, diciamo. La squadra piccola che veniva a Torino, no? La provinciale che veniva a Torino e stava tutta nella propria area sperando di non prendere gol. Certo, mettevano il pullman davanti alla porta. Quando entra Dybala verso la fine, dopo il gol dell'1-1, a me sembra che la Juve cambi atteggiamento. Cioè, il motivo che mi porta a essere diciamo innocentista sulla prestazione della Juve di ieri è questo. Cioè, a me sembra che la Juve abbia concesso tante palle gol al Napoli sicuramente e una sorta di sostanziale dominio sull'1-0, però insomma, poi nel finale dopo l'1-1 la Juve si risistema. Questa è la mia sensazione, poi magari. Ma Dybala, io adesso esagero. Dybala sta alla Juventus. Posso dire una cosa? Ma non è che c'è un tema Higuain? Nel senso che questo forse è l'unico elemento che un pochino può preoccupare in vista della Champions League. Higuain, vatti a vedere dove ha toccato, c'è un diagramma che mostra quanti palloni ha toccato Higuain e dove li ha toccati. La maggior parte, direi grosso modo il 60%, nella sua metà campo, cioè una metà campo difensiva. E l'unico, il pallone più vicino alla porta che ha avuto in posizione centrale ce l'ha avuto a circa 30 metri dalla porta stessa, zero palloni è toccati in area di rigore. Detto questo, vi sembra molto brillante? Lo chiedo a Massimo Mauro. Sì, ti posso dire però, Pier, sì, perché quando ha toccato la palla sulla linea di calcio d'angolo ha fatto fuori Usai in maniera proprio facile, ha messo una palla in mezzo pericolosa e non c'era nessuno. Quando è ripartito nella sua metà campo, ha preso palla e ha tentato davvero di giocare da solo contro 4-5 del Napoli. Non c'era scarico perché c'era Lemina a destra che non supportava. L'unico è stato Chedira che due o tre volte si è inserito e tanto è vero che ha fatto un gol. Cioè, io dico che la grande prestazione del Napoli, mettiamola così, perché la spiegazione a fine partita di Allegri mi ha convinto, dice guarda, è stata la difficoltà della partita e ci siamo adeguati. Sì. Benissimo, questo è un segnale di umiltà straordinario, tant'è vero che non la perdi poi alla fine, anche con un po' di fortuna, perché quella palla che Mertens gli scivola verso destra anziché verso sinistra, cioè 10 centimetri a sinistra e Mertens la tocca di punta e fa gol, invece va verso destra e non ha angolo e prende il palo. Ecco, io dico anche questo, poi la Juve porta a casa un punto ed è utilissimo, poi ci mancherebbe altro. Si porta a casa anche le energie fisiche di Cuadrado, tu parli di scarichi, ma da quella parte c'è Cuadrado, poi c'è Pjanic che inizia da trequartista e va a finire a fare il regista arretrato. C'erano un sacco di difficoltà che Allegri ha gestito bene, per l'amor del cielo, e poi io do tantissimi meriti a Napoli, però stiamo parlando di una squadra che era 1-0 dopo 7 minuti, e non ha fatto più niente per tutta la partita. Sì, questo è in dubbio, questa è cronaca, questa è fredda cronaca. Il caso Higuain quindi secondo te non esiste, nonostante non segni da un mese e mezzo. Attenzione, non vorrei... Caso Higuain, problemi Higuain, questione Higuain hai detto tu, mi pare. Sì, nel senso che Higuain mi sembra in un momento di forma sufficiente, ecco. Cioè, non credo che ci sia veramente un caso Higuain, non è... in grande difficoltà, qualche partita che non segna, però certamente non è l'Higuain di inizio 2017. Siccome il Barcellona si avvicina, ecco, da questo punto di vista, secondo me, al netto di tutte le cose che abbiamo detto, perché è evidente che ieri è stata la partita forse più ingiudicabile per un attaccante, una partita nella quale riceve pochissimi palloni e nella quale comunque la sottolineata mancano anche quelli che glielo devono dare, mancano quelli che glielo devono dare, ha fatto salire la squadra, quindi non discuto su questo, però insomma, ripeto, secondo me, visto che adesso il Barcellona non è esattamente una squadra debole, bisogna che la Juve faccia un salto, faccia uno scarto in avanti, e secondo me lo deve fare anche Higuain. C'è tempo nella partita di Coppa Italia con il Napoli, c'è tempo in un turno morbido in casa contro il Chievo, sono tutte partite di avvicinamento. Posso dire un'altra cosa? Come no? È andata benissimo il cambio di Allegri, no? Con Mandzukic, Dybala, i due centrocampisti, insomma, a me è piaciuto e ha dato dei risultati importanti. Che non sia venuto il momento di cambiare anche quello, perché magari un sistema che cambia e che ti dà dei risultati buoni per 7-8 partite, poi forse lo devi ricambiare, perché la mancanza di personalità di ieri, perché veder giocare in quella maniera che Dira, Pjanic e Marchisio soprattutto, no? Mi fa venire in mente un po' di preoccupazione da parte di Bonucci, che è stato troppo basso, era sulla linea d'area di rigore. Sì. Allora non vorrei che Bonucci si senta molto più tranquillo se gioca a 3 e non a 4, sicuro, per esempio. No? E allora voglio vedere contro il Barcellona che succede, perché contro il Barcellona a sinistra e a destra c'hai Neymar, Messi e in mezzo Suarez. Li contrasti con Asamoah e Lee Steiner. Insomma, c'è chi mi scrive: Higuain sta inchiattato. Traduco: ha messo su qualche chilo. Ha messo in Argentina. Avrà mangiato qualche. Cioè, secondo me, a lei deve inventare qualcos'altro. Ecco, sì. quello che voglio dire. È stato bravo ad inventare questo sistema. Senti, Massimo, no? Deve rimodellarlo. Secondo me, approfitto ancora un istante della tua presenza facendoti sentire una voce, che è quella di Preziosi. ho voluto solamente venire allo stadio, poi non so se verrò o non verrò più, non hanno una poca importanza. Però io dico a tutti questi signori che mi hanno dato il figlio di e loro invece non lo sono, di venire però a portarmi invece di contestare, portarmi delle soluzioni. Il fatto che io debba andarmene via per me non è un problema, la soluzione più semplice. Il fatto che io non posso lasciare la società così senza nessun controllo. Quindi se avessero qualcuno da portarmi qua, io li aspetto serenamente, mi seguo con loro, guardi, faciliterò tutto, perché io francamente ne ho piene le scatole, va bene, degli ultra, dei tifosi degli ultra, di quella gente che mi telefona di notte o di nascosto per poi incontrarmi, perché questo è il mondo degli ultra. Vabbè, a Genova c'è casino, non è la prima volta, non mi sembra nemmeno la più grave. Io dico soltanto, e lo ripeto, che Empoli e Genova sono due squadre che in questo momento dovrebbero retrocedere d'ufficio. Per quanto riguarda l'Empoli, non dovrebbero retrocedere d'ufficio, perché non puoi salvarti con giocando in questa maniera, con un ruolino di marcia, ad esempio, dell'Empoli. Ma l'Empoli non gioca male, l'Empoli non segna, c'è questo piccolo particolare. Ho capito, ma vai un punto in 9 partite e meriti di retrocedere d'ufficio. Ma squadre al momento peggio di loro, e quindi. No, io credo questo, che onestamente ci sia della verità. In ma cosa? Come una verità soggettiva, delle parole di Preziosi, cioè io penso che lui si sia veramente rotto le scatole. Vabbè, ma lo dicono tutti i presidenti, lo dicono tutti i presidenti, portatemi qualcuno che compra, che io non ho problemi a vendere. C'è qualcosa che non funziona nella struttura del calcio italiano, nel senso che c'è da un lato il problema del famoso paracadute, addirittura per le squadre che retrocedono, che è troppo alto, e l'abbiamo detto mille volte anche l'altro giorno con Belinazzo, per cui ci può essere la tentazione, se qualcuno è in grande difficoltà, di svendere i giocatori a gennaio. Esatto, ma io la giro a Pier, poi continuiamo questo discorso, ma devo salutare Massimo e giro a lui questa domanda, visto che è stato dirigente del Genoa. Cioè, il motivo è chiaro: se tu smonti la squadra a gennaio e poi ne fai una nuova e poi cacci l'allenatore, cioè non puoi che andare male. Sì, dal punto di vista tecnico è discutibile quello che è successo a Genoa negli ultimi anni. La storia si ripete, perché ciclicamente Genova, poi il presidente viene contestato e deve scappare via. Preziosi forse ha un sacco di motivi per recriminare proprio sulla conduzione tecnica. Basta vedere che ieri sulla panchina c'era Gasperini dell'Atalanta, che era uno che forse non sarebbe mai dovuto andare via da Genova, no? Perché sì, oltre a fare il risultato si faceva crescere proprio il capitale giocatori. Quindi era uno di quegli allenatori che da un posto come Genova non deve mai andare via. E invece uno di quegli allenatori che se ce l'hai te lo tieni. Massimo, grazie. Alla prossima. Tutti convocati. Breaking news. 14:30, nuovi aggiornamenti sull'esplosione verificatasi nella metropolitana di San Pietroburgo. Purtroppo la situazione si aggrava mentre emergono nuovi dettagli. Le esplosioni, secondo l'agenzia TASS, sarebbero in realtà due, dunque avvenute in due diverse stazioni della metropolitana di San Pietroburgo. Attualmente sono 7 le fermate chiuse ed è in corso l'evacuazione. Le vittime sarebbero salite a 10, ancora incerto il numero di feriti. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Tutti convocati. Ce l'avevo dietro le scale e gli ho detto: stasera avete avuto un bel culo, compreso il 9, e io sapevo che lui mi sta sentendo sullo scalino dietro, ma se sta scherzando. Il 9 cosa ha risposto? Niente, il 9 ha sorriso e poi venuto a abbracciarmi, ma il rapporto fra me e lui è sempre stato buonissimo. Higuain secondo me ha fatto anche una buona partita, è normale che dopo 3 anni arrivare a Napoli e avere tutto uno stadio contro, non era semplice neanche per lui giocare. Alla fine non è un robot, è un ragazzo molto sensibile, e stasera ha fatto una buona partita. dovete chiedere a lui. Noi abbiamo pensato alla nostra partita e prendersi soddisfazione contro questa Juve. Cioè, siamo riusciti a metà, però gioco espresso dobbiamo essere contenti. In 3 anni che è stato qua ha dato tutto, dopo lei così e va bene così. E noi, come ho detto, io non penso a lui e penso a Napoli. Ovviamente bellissima la battuta di Sarri, no? Pierluigi Pardo su Higuain, sulla musica di chi l'ha visto. No, ma lui, ne parlavamo ieri pomeriggio, a me è piaciuto molto nella conferenza stampa pre-gara con quella frase lì, che sì, è un passo avanti rispetto alla, no, tante volte alla diplomazia, alla conferenza stampa. Lui dice una frase su Higuain molto bella, dice: io gli devo molto. E secondo me questo è veramente una grande dimostrazione di eleganza da parte di Sarri. Certo. E come ben sai, qualche volta nelle conferenze stampa, nelle dichiarazioni, mi è piaciuto di meno di quanto invece mi piaccia in campo. Uh-huh. È stato proprio bravissimo, perché lui è consapevole che una parte della sua stagione straordinaria dello scorso anno, la prima vera grande stagione con una grande squadra, è andata bene anche per merito di Higuain. Sì. E viceversa, attenzione, bravissimo, perché poi è quello che volevo dirti. Higuain deve molto a Sarri. Se vogliamo giocare un po', è chiaro che in una partita come quella di ieri, magari a un certo punto Higuain sarà venuto in mente: un anno fa giocavano tutti per me. Bravo. Però era chiaramente una partita particolare, e ti ripeto, io sono innocentista e sulla Juve di ieri, cioè, secondo me la Juve ieri ha gestito una situazione e l'ha fatto, secondo me, con relativa tranquillità, al di là del fatto che Napoli chiaramente poteva vincere. Guarda, io la Juventus la giudicherò la sera di Juventus Barcellona, che tra l'altro potremo vedere tutti con o senza armamentari tecnologici vari in chiaro su Mediaset, su Italia 1, canale 5, non so dove. Sì, quella sera giudicherò. Premium è una roba normale, lo so. No, non mica detto a Paraghinonari, sì, potrebbe, però serve la fusione a freddo, cioè, no, non mi serve la fusione a freddo, è che non ce l'ho. Sto aspettando che me lo regali. Ah, vabbè, allora. No, comunque Higuain non penso sia un caso, penso che si debbano tanto l'uno all'altro, perché come ti ho detto ieri, Higuain era sul punto di andare via da Napoli scocciato dalle gestioni precedenti, si è affidato a Sarri, ha creduto in Sarri, credo davvero si vogliano bene, per quanto ci si possa volere bene tra professionisti nel mondo del calcio. Luigi Catania, buongiorno. Buongiorno, io vorrei dire a Mauro che non capisce una mazza di calcio, perché Allegri come Balotelli. Sì, Allegri è troppo intelligente per dare certe spiegazioni, perché Allegri già ha visto Barcellona, Parigi, Saint Germain, ha visto anche Chelsea e Crystal Palace. Lui ieri è andato là per prendere un pareggio. La mossa Lemina è spettacolare. Lui è andato là per prendere un pareggio. Poi mi dovete dire una cosa: il Napoli che cosa ha fatto? Cioè, praticamente c'erano quei quattro nanetti che giravano attorno a quelle quattro statue mostruose che ci abbiamo di dietro. E Allegri sa che deve andare a giocare ancora a Roma e la può perdere la partita, perché se ieri la Juventus perdeva andava a 5 punti, e se perde con la Roma, che può succedere, va a 2 punti. Allegri è troppo intelligente per dare queste spiegazioni, vi prende in giro a tutti. No, ma con Allegri Siamo andati a giocare con il Barcellona. Siamo in finale di Coppa Italia, perché ci andremo. Abbiamo vinto lo scudetto. Allegri è un calcolatore perfetto, perché lui studia punto per punto. Quel punto di ieri sera è fantastico per me. È fondamentale. Ma lo stiamo dicendo, vuol dire che Massimo Mauro si capisce una mazza di calcio, e mi ha ricordato Balotelli che dice a Marocchi: tu, che secondo me il calcio non capisci un cazzo. Io questa è abbastanza anche la mia teoria, anche perché poi comunque non ci dimentichiamo che Dybala e Cuadrado non erano al meglio, insomma, non era una cosa. Dybala e Cuadrado non hanno giocato se non nel finale di partita. Detto questo, ci sta pure che uno si potesse aspettare qualcosa di più, ed è oggettivo quello che dice Massimo sul fatto che dopo che sei passato in vantaggio dopo 7 minuti, insomma, dalla Juve 2-3 ripartenze te l'aspetti, non dico 7, ma 2-3 ripartenze pericolose. Però vedi che non ha gli uomini per. Secondo me la Juventus ieri sera non aveva gli uomini deputati alla ripartenza. Chi fa ripartire? Mandzukic, che gioca sulla linea dei terzini. Gli uomini deputati alla ripartenza erano accomodati in panchina, a cominciare da Cuadrado, sì, per finire con Dybala e con Alexandro, no? Ma poi c'è, non dimentichiamoci che c'è anche la Coppa Italia, eh? C'è anche l'elemento turnover. È chiaro che pensare al turnover in occasione della partita, la partita scudetto come Napoli-Juve può far sorridere, però insomma Allegri da questo punto di vista è abbastanza scientifico, e anche Sarri ha sorpreso ieri, abbiamo visto Strinic in campo dal primo minuto, quindi insomma io credo onestamente che la Juve abbia portato a casa il risultato. Il vero paradosso di oggi è che stanno tutti bene, per citare un libro di qualche tempo fa, noi facciamo il titolo Attichitaga di uno schermone, stanno tutti bene, perché veramente è stata una partita alla fine della quale Sarri giustamente gonfia il petto perché si è visto un Napoli in salute e che gioca un buon calcio. Sì. Allegri ha fatto un passo, secondo me, importante verso lo scudetto e di fatto ha tolto una possibile rivale, perché insomma da oggi è evidente che il Napoli non vincerà il campionato, credo che non ci siano dubbi. Fino a ieri, con una vittoria poteva in qualche modo ritornare in corsa. Il vantaggio sulla Roma rimane rassicurante, e però credo che anche Spalletti alla fine sia contento, perché ma sì, Spalletti è contento, che certo gli dà due punti di vantaggio su quella. Diego al fischio finale ha detto che sperava nel pari, e secondo me non è un discorso sbagliato, nel senso che comunque no, perché fa la corsa sul, perché la sua corsa adesso è sul Napoli. Erasmo da Palermo, ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, chiamo per santificare Allegri. Io santificare mi sembra tantino, ma comunque no, tantissimo ovviamente in senso sportivo, perché quando è arrivato alla Juve io sono un estimatore massimo di Conte, immaginavo il peggio, invece ieri Allegri ha dimostrato davvero di essere uno dei più grandi allenatori d'Europa, se non del mondo. È andato a Napoli, ha fatto turnover, ha messo in panchina gente che era più stanca di quella che giocava, vedi Quadrado e Dybala, e soprattutto ha dimostrato a tutta Italia che ha sempre ragione lui, nel senso che è primo in campionato, semifinale di Coppa Italia, quasi finale, quarti finale col Barcellona. Come si fa a criticare Allegri? E poi devo dire una cosa, il Napoli ieri ha avuto delle occasioni, ma non ha fatto un tiro in porta, Buffon non ha fatto una parata, quindi tanto rumore per nulla. Questo è, insomma, in buona parte vero, è un po' quello che stiamo dicendo io e Pardo. Dico per la cronaca che prima è entrato Tranchan Cruciani in studio e mi ha detto: ma no, si può comprare tutti quei campioni e giocare come Trapattoni. Questo è stato il suo sintetico commento alla partita. Forse l'unica pecca è un po' quella, che la Juve si è difesa un po' troppo, però secondo me era tutto studiato a tavolino, perché le due linee centrocampo e difesa erano sempre compatte, sempre a pochi metri. Diciamo che abbiamo preso gol solo in qualche un piccolo errore di copertura, però poi non potevano far gol mai. Allegri lo dice mille volte, l'ha detto in 100.000 interviste, non ci facevano mai gol, ed è così. Allora ci fermiamo per il traffico e poi sentiamo l'umore del giorno dopo dei tifosi. Convocati. Breaking news. Ancora aggiornamenti sulle esplosioni alla metropolitana di San Pietroburgo. Ordigni artigianali potentissimi, questo ha comunicato l'agenzia Interfax. Ordigni con circa 200-300 grammi di tritolo. A San Pietroburgo oggi c'è in visita il presidente russo Vladimir Putin, che è stato informato dai servizi di sicurezza su quanto accaduto e non ha escluso l'ipotesi terrorismo. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Tutti convocati. Intanto è arrivato Massimo Zampini, ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio a voi. No, stavamo parlando di Higuain che si è preso una sera di vacanza contro il suo amicone Sarri. No, ma secondo me no. Preoccupante, dai. A me non è dispiaciuto invece Higuain ieri, secondo me era uno dei pochi che riusciva a portare avanti la squadra, anche fisicamente non l'ho visto male invece. Certo, se sta da solo con 30 metri di distacco dal resto della squadra non può fare nulla. Certo, se non struscia un pallone che è uno in area, d'altra parte possiamo andare avanti con i SEMO, rischiamo di diventare ripetitivi se non gioca Dybala, se non gioca Quadrado, se non gioca Alessandro, se non gli portano la palla, allora può guardare con invidia al... alla piastrella in cui giocava l'anno scorso lui e in cui quest'anno Giostra Mertens, scusate l'errore di dizione. Senti Massimo, hai qualcosa da rimproverare ad Allegri tu, da Juventino? No, devo dire che visto il risultato no, poi le analisi cambiano troppo a seconda di come è andata poi alla fine, perché se avessimo perso avremmo detto... Ormai sei un allegriano, dai, vabbè. Dai. Esatto, no. Ma da tempo. No, vabbè, ma Allegri ieri sinceramente la Juve non ha fatto una buona partita, ha fatto una partita abbastanza corta, era comunque in vantaggio fino a mezz'ora alla fine. Il che, sai, quando mi fanno vedere i dati della supremazia territoriale, benissimo, ma se forse in vantaggio il Napoli al sesto minuto, magari la supremazia territoriale la facciamo noi, cioè non è quello poi secondo me il problema. È che non siamo ripartiti, cioè tu devi comunque mettere paura all'avversaria 2, 3, 4 volte. E se non fai questo, insieme, certo c'erano le assenze e tutto il resto, però poi io non sento aver rischiato così tanto. Chiaramente meritavano loro il palo per un errore clamoroso, 2-3 tiri, ma nel senso del, cioè Buffon non ha fatto neanche una parata tutto questo, però hanno giocato meglio loro. De Luca che mi scassa sempre per il mio telefono, adesso che dirà di Zampini? Che Zampini che è nella galleria del vento, nella galleria del vento a Maranello. Con Giugiaro e Pininfarina, con chi sei? Veramente sei in una... Zampini? Mi sei offeso, o è stato spazzato dietro al vento, potrebbe anche essere questo. Zampini. Massimo. Comunque, eccolo, va bene, sei uscito dalla galleria del vento, questo mi fa piacere. Quindi insomma sei ottimista? Sì, sono ottimista nel come senso. Come mai essere pessimista? Ieri è importante non perdere, secondo me, e quindi questo è importante. Ci abbiamo una partita fondamentale tra 2 giorni, è ancora più importante tra 6 e ancora di più tra 9. Quindi sai. È così che va la vita, multipli di 3. Boris Sollazzo, sei contento? Ma no, ovviamente no. Però, no, sei depresso. Non neanche depresso. L'unico spavento che ho io è che siamo la squadra che gioca di gran lunga meglio e rischio di rimanere con un pugno di mosche. Cioè, quello, l'impressione che se si dovesse sbagliare partita all'Olimpico, il Napoli si troverebbe a lottare per una posizione che veramente non gli compete. Ieri, schiacciando la Juventus, dopo i 50 minuti in cui abbiamo schiacciato il Real Madrid, abbiamo capito che a Napoli compete un'altra posizione, è una realtà dura da accettare, insomma. Però è anche vero che avessimo tolto, che ne so, Higuain e Dzeko per 6 mesi a Roma e Juventus, probabilmente avrebbero avuto le nostre stesse problematiche. Dai, Boris, no, ieri sera è vero, il Napoli non ha concretizzato, come dicono quelli dotti, però è una squadra che normalmente non ha grandi problemi da questo punto di vista. O mi sbaglio, magari mi sbaglio io, Pardo. No, io penso che adesso è tutto chiaro, perché se il maestro Sollazzo ha il potere, frequentando la gente che fa cinema, ha questo potere visionario dei grandi registi. Il problema il pericolo del Napoli è lo stesso che c'è stato dopo Napoli-Real, è il premio della critica. Il Napoli non deve diventare il premio della critica, siccome gioca bene, e questo è oggettivo, ha tanti giocatori divertenti, ha una qualità di gioco elevata. Questa cosa il Napoli la sa fare, l'abbiamo capito, l'ha dimostrato ieri, l'ha dimostrato nei primi 50 minuti con Real. Vincere le competizioni è uno step successivo, e attenzione, è complicatissimo, perché tu sai che io considero Napoli e Roma due squadre sottovalutate, e trovo che ci sia un eccesso di critica nei loro confronti, perché sono due squadre che riescono quasi a competere con la Juve con un budget minore, e quindi secondo me fanno delle cose eccezionali, e la frustrazione ovvia di avere una squadra così forte davanti, però non deve diventare un motivo per pensare che siano due squadre sfigate. Sono due squadre meravigliose che fanno grandi cose, però attenzione, perché ieri, così come dopo il Real, contro il Real e forse ancora di più, insomma c'è forse un eccesso di pessimismo? Un eccesso di allegria nell'ambiente, no? Come giochiamo bene, quanto si gioca bene, che grande squadra, l'abbiamo messi sotto, poi bisogna vincere le partite, e per vincere le partite delle volte devi magari essere non è che devi essere meno bello, ma devi essere sicuramente più solido dietro, che mi pare il padre di tutti i problemi pochi che il Napoli ha. Sì, detto posso che aggiungere... Puoi aggiungere quello che vuoi, Massimo. Sì. No, aggiungo, facendo un po' l'avvocato del diavolo, perché a me tra l'altro il Napoli è piaciuto molto, e in campo mi è molto anche, dico simpatico, è una parola sbagliata, ma è una squadra che gioca bene e diverte, quindi non ho nulla contro. Boris sa chi sono i miei rivali in amicizia, non è il Napoli principalmente. Ci ho detto, ieri ricordiamo però, il Napoli si presenta con 10 punti di distacco, in casa, non ha più altri impegni europei voglio dire, quindi diciamo non ha più la testa chissà quali impegni, non ha quindi da fare turnover e cose del genere, gestire energie. La Juve va con 3-4, non dico rincalzi perché chiamarli così, Marchisio e compagnia non sarebbe corretto, senza però Dybala e altri giocatori importanti, e la Juve in vantaggio fino al 60esimo, dopo rischia sì su quello svarione ma poco più, e lo dico in una partita in cui non sono per nulla contento ovviamente di come abbiamo giocato, però sono d'accordo con Pier, poi non vorrei che si dicesse io il Napoli l'ho visto, gioca bene è vero, l'ho visto però a Torino all'andata fare poca roba, l'ho visto in Coppa Italia al di là delle polemiche e tutto il resto, dopo un buon inizio sparire completamente nel secondo tempo, quindi sai, è anche continuità secondo me una grande squadra, non è solo il bel gioco di mezz'ora o di un tempo o di una partita. Sollazzo. Ma intanto secondo me bisognerebbe dire che i fatturati di Napoli e Roma insieme non arrivano a fare 2/3 di quello della Juventus, e questo non è poco. Detto questo, anche ieri il Napoli gioca con un secondo portiere che ha giocato credo 180 minuti in due anni, e gioca con Strinic che è una riserva storica di Goulam, gioca con Jorginho e mi risulta che a Bernabeu c'era Diawara. Cioè, anche il Napoli non è che giochi con la formazione migliore, quindi questo discorso mi sembra che lasci il tempo che trova. Sono d'accordo con Pier sul fatto del premio della critica, perché chi vince il premio della critica non vince mai Sanremo. Sì. E a me interessa vincere Sanremo, non il premio della critica. Detto questo, ripeto, cioè, il premio della critica lo vinciamo anche perché ci inventiamo un centravanti che fa un gol più di Higuaín e chiaro, che non fa centravanti. Il Napoli nei momenti decisivi ha perso Reina nella partita contro la Juventus che poteva essere decisiva per il secondo posto, ha perso Albiol per 10 partite. Devo salutarmi ragazzi, se no mi sfumano, è stato un piacere ovviamente, grazie Pierluigi, ci sentiamo domani, Massimo Zampini, Boris Sollazzo, noi ci sentiamo dopo il GR in cui avremo un grande classico, cioè Franco Ordine contro Biasin, parleremo di Amaro. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. A Vinitaly, padiglione 3, trentodoc.com. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo, ricominciamo tutti ai nostri posti! E andiamo! Convocati. Le promesse punta verso il centro, Klaassen al limite dell'area, pericolosamente promesse, pallone deviato, autogol di Romagnoli. La vita Paperopoli è un gran ballo. Sono felicissimo dell'esordio dal primo minuto, però c'è ancora Gigi che sta facendo molto bene, lo ringrazio tanto per tutti i consigli che mi dà in allenamento, i complimenti che mi ha fatto prima, quindi sono orgoglioso di vestire questa maglia e ringrazio lui per il supporto che mi dà. Stasera mi godo la nazionale, mi godo il momento, poi da domani inizieremo a preparare la partita col Pescara, poi se ne parlerà. Saprani che con una spallata cerca di anticipare, di complicare, di disimpegno, autogol clamoroso di Paletta. Non è un errore che mi farà tirare giù di morale, quindi vado avanti sempre col sorriso, a lavorare, a scherzare con i miei compagni, quindi andiamo avanti a testa alta. Misteriosa paperosa. Beh, aveva predetto, no? Adesso prepariamo la partita col Pescara e se poi se ne parlerà, probabilmente se ne parlerà più di quanto Gigio Donnarumma avrebbe voluto di questa partita con il Pescara. Adesso sarebbe il caso di alzare il telefono, comporre per lui il numero di Buffon e farsi dare un consiglio alla domanda come si assorbono le papere come questa. Io la posso girare a Ciccio Ordine e Fabrizio Biasin, vediamo se riescono ad essere d'accordo almeno su qualche punto. Ma io penso che sì. Ecco, hanno già cominciato insieme e partiamo male. Ordine. No, allora, io l'ho detto stamattina, io sul giornale gli ho dato 4,5 come voto in pagella e gli ho detto si prenda questa pagella, questo brutto voto, se lo ritagli e se lo conservi nell'archivio della sua carriera, perché sì, sarà probabilmente una delle pochissime insufficienti di tutta la sua carriera. Aggiungo che è giusto anche così, che ogni tanto l'Aquila deve assolutamente scendere a terra e magari fermarsi da qualche parte per come dire, prendere consapevolezza da dove è partito. Io credo che gli faccia bene, assolutamente bene, aver preso questo schiaffo. Credo che gli servirà, perché dal punto di vista tecnico, e qui parliamo diciamo di calcio, lui ha questo difetto di essere un mancino naturale nel calciare, e quindi quando la palla gli arriva dalla parte del destro ha grandi difficoltà nel controllo. Fabrizio Biasin, l'Aquila deve ogni tanto atterrare e prendere respiro. L'Aquila o il Papero, visto che è protagonista di Paperino? No, ma il discorso è più ampio e più serio, il peso della popolarità, il peso della popolarità che esplode all'improvviso, come la primavera. Io credo che sia veramente ridicolo rompere le balle a questo ragazzo per un errore grave, gravissimo, perché poi è costato dei punti non per colpa sua, perché poi lui le sue parate le ha fatte anche nella partita di ieri, probabilmente per colpa di tutte le componenti, non ultima quella di un allenatore che probabilmente ieri ha sbagliato la formazione. L'errore su Donnarumma non è giudicarlo per la papera di ieri, forse semmai è giudicare chi gli sta attorno e lo valuta già un giocatore da 100 milioni. Questa è un'esagerazione che gli fa male, perché non gli verrà mai perdonato niente. A 18 anni qualunque genere di minimo errore verrà considerato come un errore gravissimo, e questo forse non è ideale, non per il calciatore ma per l'uomo. E questo è il suo destino, però, Ciccio? Questo è il suo destino, cioè l'essere uomo copertina, uomo mercato, uomo immagine? Lui è già diventato a 18 anni. Ma è inevitabile, per chi come dire, ha cominciato a battere questo sentiero, che è il sentiero della star, il sentiero dei dello numeri star uno, system, sì, ma soprattutto dei numeri uno, è evidente che farà, il giorno in cui non farà una grande parata farà notizia. È capitato a Buffon, è capitato a tutti i più grandi portieri del mondo, della storia, certo, persino a Zoff. Io credo, da questo punto di vista, che lo renderà ancora più simpatico, perché probabilmente, come dire, si toglierà da sotto la maglietta quel costume Rainbow Kid che gli avevano disegnato molti osservatori e anche qualche agente che straparla quando parla di Ciccio Donnarumma. Qualche uno, il suo, è sempre lui. L'uomo del mistero. No, certo. Piuttosto vi faccio una domanda. Dimmi. A proposito dell'uomo, come dire, minorario, tanto per fare un nome e un cognome, che tra l'altro mi potrebbe stare anche molto simpatico perché so che ha sposato una foggiana. Devo dirti. Ma a me sta simpatico a prescindere, guarda, posso dire. Devo dirti questo, e facendo una piccola ricerca ho notato che tutti i suoi più grandi calciatori, quelli numeri uno, quelli che sono sui giornali dal 1 gennaio al 31 dicembre, sai che hanno avuto grandi stipendi, grandi titoli, grandi onori, ma non hanno mai vinto, per esempio, una Champions League? Parlo non soltanto di Balotelli, che sarebbe quello, diciamo, più facile da indovinare, ma parlo di Nedved, parlo di Ibrahimovic. Allora, io, se fossi nel papà di Donnarumma, comincerei anche a considerare questa eventualità. Vabbè, prima o poi dovrà pure succedere. Vi faccio una domanda incrociata e un po' maliziosa. Il Milan dice ciao ciao con la manina al treno dell'Europa. Però quel sesto vagone non era poi così comodo, perché quel sesto vagone, se la Juventus dovesse vincere la Coppa Italia in finale contro Lazio, poniamo, ipotesi probabile, il sesto vagone è quello che porta al preliminare di Europa League. Non so quanto il nuovo Milan cinese, americano, cinoamericano, afroamericano, cubano, brasiliano, quello che sarà, che non ho ancora capito, non so quanto il Milan possa augurarsi il sesto posto. Contratti già firmati per le famose tournée. Sono le tournée, ci sono le amichevoli, sicuramente sono importanti, però è anche vero che il Milan non si può permettere di stare così tanto tempo fuori dall'Europa, anche quella di Serie B. Io credo che invece Montella farà di tutto per arrivarci, anche se ti complica la vita in estate, anche se ti complica i piani sul mercato. Certo è che tutto passa dal famoso 14 di aprile. Dopo il 14 di aprile si potranno fare tutta una serie di ragionamenti. Uh-huh. Intanto io anticiperei al 13, perché ho l'impressione che si farà il 13. Poi aggiungo che c'è anche un derby fissato in Cina per l'estate, che sì, potrebbe saltare da un momento all'altro. Però io devo dire francamente, condivido il giudizio complessivo secondo cui rimanere per il quarto anno fuori dalle coppe è un danno all'immagine clamoroso per il Milan, per la sua storia, per la sua gloria e per le sue abitudini più recenti. Però obiettivamente, se dovessi scegliere come stagione della ricostruzione, della rinascita, una estate ideale, disegnerei un'estate senza i preliminari di Europa League. Mm-hmm. Intanto molti ascoltatori ti contraddicono, Franco Ordine, perché ti dimentichi la Champions League che Balotelli ha vinto con la maglia dell'Inter. Sì, senza onestamente, senza, come dire, buttando giù la maglia, senza avere un ruolo di primaria importanza. Ricordo il famoso Balotelli che si fa cacciare dopo che durante l'intervallo Mourinho gli fa tutta una predica per evitare, sì, di farsi ammonire per la seconda volta. Sì, no, però sì, ti blocco, Franco, perché Balotelli in quell'anno è stato essenziale e importantissimo, perché Mourinho, puntando i riflettori su Balotelli, riuscì a fare un piccolo capolavoro. Tutta l'attenzione sul piccolo Balotelli e l'Inter va a vincere quello che va a vincere. E è stato importante. E la maglia buttata per terra, il divorzio con urla e strepiti, eccetera, eccetera. Vediamo se riesco a farvi dividere per concludere almeno su un argomento. Massimiliano Allegri, promosso o bocciato ieri sera dopo la notte del San Paolo? Parto io. Parti per tu. Me è strapromosso, perché è vero che ieri la Juventus è stata brutta, ha faticato, si è chiusa nella sua area per 90 minuti, ma è anche vero che il fine giustifica i mezzi. Massimiliano Allegri riesce a gestire tutte le partite, è così, e lui è un maestro. La partita di ieri è diversa da quella di mercoledì, è diversa da quella con il Barcellona. Se riesci soffrendo a portare a casa un pareggio, vuol dire che sei bravo. Sì. La Juve di Napoli è stata brutta, sporca e nemmeno tanto cattiva. Il problema secondo me è che da una parte c'è una incomunicabilità tra il popolo juventino e Allegri, che credo debba portare inevitabilmente a un divorzio, perché non si può continuare tutte le volte che fa un pareggio a sputarli addosso. Prima o poi, siccome tra l'altro è vero che è un amabile battutista, è vero che è anche un livornese molto simpatico, ma un giorno o l'altro gli salterà la mosca al naso e comincerà a mandare a quel paese un po' di gente, e spero che lo faccia al più presto e magari anche in occasioni pubbliche come quelle della Champions League. Guarda Franco, oggi appena sono entrato in questo studio che tu conosci, sai, gli SMS e i WhatsApp sono molto crudi. Sì, guarda, e io penso che nemmeno la buonanima del mostro di Firenze ha avuto tante critiche. No, il primo messaggio che ho letto è stato: dite ad Allegri che è un allenatore da calcio balilla. Sì, ecco qua. Hai capito? E vai col tango. Il dato di fatto è che non c'è un allenatore che ha risultati come Allegri, non in Italia, ma in Europa. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Allora, quest'anno fa, campionato già vinto, sta gestendo, anche ieri si era gestito. E in Coppa Italia ha un piede e mezzo in finale, che è l'unica cosa che gli interessa. Poi sul fronte italiano non gli interessa più niente di niente, compresa la partita con la Roma. Sul fronte, adesso sta pensando al fronte europeo, sta cercando di preparare quelle due partite lì. Dopo quelle due partite lì, facciamo un discorso un po' più serio, ok? Questo è il senso. Tanto, ma soprattutto dopo quelle partite lì pensiamo a quello che sarà il futuro di Allegri, che il quale credo non dia per scontato la riconferma, perché ho l'impressione che anche lui avverta con un grande senso di fastidio quello che gli succede intorno. Eh sì, ma chi non ha, ma hai ragione, ma chi non avvertirebbe un grande senso di fastidio? Intanto vi informo che Spalletti ha appena dichiarato che dalla derby di domani in Coppa Italia dipende gran parte, dipende buona parte del suo futuro. Questa, sì, questa è nuova. Lo sta dicendo da un mese praticamente. È anche un po' fastidiosa il fatto di continuare a ripetere o vinco o me ne vado. Suona un po' come un ricatto o una scusa. O una scusa. Posso dire una cosa su Spalletti? Certo che puoi. Lo voglio dire a Lucia Cerotto e basta. Grazie ragazzi, è sempre divertentissimo. Grazie Fracordine e Fabrizio Biasin. Torniamo agli ascoltatori. 800 24 00 24. Federico, buongiorno. Buongiorno a tutti. Niente, stavate parlando di Donnarumma prima. Sì. Ecco, io non so come, ma bisognerebbe creare un sistema di tutela per questi gioielli che in prospettiva possono davvero diventare dei grandi campioni. Come si fa? E in questi giorni mi è venuto tra le mani un vecchio filmato del 96, gli europei di Under 21, e in porta c'era Angelo Pagotto, e mi è venuto il parallelo, anche lui era un predestinato, era uno che doveva arrivare ed era arrivato già in alto. Non e poi a questo livello. Purtroppo le premesse c'erano però. Le premesse c'erano, ma lì serve il carattere, serve l'ambiente che ti circonda. Non è facile, non è facile vestire quei panni lì, i panni del predestinato, i panni di quello che finisce sulla prima pagina del Times, come su quelle di Paperino, i panni di chi non può mettere il naso fuori di casa senza che mille sconosciuti comincino a chiedergli i selfie, gli autografi, eccetera eccetera. I panni di chi, ieri parlavamo di Higuain quando viveva a Napoli, non poteva nemmeno mettere il naso fuori di casa per andare al ristorante senza essere assalito. A Torino vive una vita più facile. Non è facile essere belli, bravi, ricchi e famosi, non è facile per nulla, e quella scorza lì un po' ce la devi avere e un po' devi avere la fortuna di avere chi te la costruisca. Claudio da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Volevo ritornare un attimo sul Napoli. Io sono rimasto basito a vedere la Juve che giocasse con il 9-1-1. Una partita, voglio dire, tutta chiusa in difesa, senza dare spazi, senza giocarsi la partita, con 10 punti di vantaggio sul campionato. È assurdo vedere, cioè la gente paga un biglietto, qualcosina la dovrà pure far vedere. E poi una gentilezza per Pardo, il lunedì invece di andare in onda alla mezza, che qua ci svegliamo alle 6 del mattino per andare al lavoro, un attimino prima cortesemente. Va bene, ok, adesso provvedo io che ho grandi influenza sui palinsesti di Mediaset, così se li appardo non possiamo farci nulla, né l'uno né l'altro tiki-taka va quell'onda lì, e quindi Pardo ve lo beccate se volete a tale ora. Vincenzo Martucci, ciao, come va? Hai anche tu la sensazione in questo ultimo mese di essere un po' più giovane? Più giovane? No, ma io sono giovane dentro, quindi non ho di questi vostri problemi di polimani. No, ma anch'io sono giovane dentro. Sono come Federer, capito? Non me ne accorgo. Io sono come Peter Pan, essendo nato anche il 29 uguali. Febbraio. Però voglio dire, finale 2 su 3 Federer Nadal, vince Federer, 3 vittorie su 3 di Roger Federer, e adesso purtroppo non lo vedremo per 3 tornei, tra cui Roma, perché si prende un break per Madrid, Monte Carlo e Roma. Lì ha deciso: no, lì non vado, mi alleno, mi preparo per il colpo grosso sotto la Tour Eiffel. Io penso che sia più bello ancora così. Abbiamo apprezzato ancora di più quando l'abbiamo perso, come tutte le cose, quando si perdono le apprezzi di più. E la stessa cosa sarà quando lo ritroveremo a Parigi. Non sono convintissimo che poi ci andrà. Non mi stupirei se lui si ripresentasse direttamente sull'erba a Dalle e poi a Wimbledon. Sì, perché in torneo solo mi sembra strano, e allora a quel punto perché non fare un'apparizione piuttosto a Roma? E così lui ha parlato subito a caldo dopo quella straordinaria vittoria che nessuno, a cominciare da lui, sarebbe mai immaginato di fare quello che ti ho raccontato. Tre vittorie così, tre tornei più forti dell'anno, più importanti dell'anno, vincerlo in questo modo nessuno avrebbe mai pensato. Quindi sai, lui era distrutto dopo quella partita, sicuramente provato anche dallo sforzo di voler, sentiva che tecnicamente è ancora tantissimo superiore a Rafa, però secondo me se ieri non vince in 2-7 rischia di perdere la partita con le condizioni terribili che c'erano in campo di gran caldo. Sì. Quindi adesso ha bisogno di riposare, quindi potrebbe addirittura fare il colpo di scena e ripresentarsi direttamente a Wimbledon con l'obiettivo di vincerlo, saltando Parigi. Io credo che quello che lui ha detto ieri non sia veritiero, cioè i casi sono due secondo me: o fa una capatina a Roma per assaggiare la terra e poi gioca a Roland Garros, oppure sì, se non viene a Roma non gioca niente sulla terra e va direttamente sull'erba. Sì, è comunque un Federer nuovo questo, è un Federer nuovo su cui ha influito molto il cambio di allenatore e la nuova guida tecnica. Certamente, cioè, è un Federer vecchio nel senso che il primissimo Federer era un Federer che giocava molto veloce, molto andando all'attacco. Questo è un Federer un po' una via di mezzo perché sta sempre molto dietro, ma che gioca fluido, che gioca libero, e Ljubicic è stato fondamentale. Non dimentichiamo che Ljubicic, per prima cosa, è un suo grande amico, ha lasciato da poco il tennis, ci ha perso proprio Indian Wells in queste partite tanti anni fa, e lo conosce benissimo, e da tempo lui ti sta dicendo: io saprei cosa fargli fare. È bello che Federer abbia avuto l'umiltà di rimettersi ancora una volta in gioco. Non dimentichiamo che questa parola umiltà è alla base di qualsiasi grande risultato. Beh, certo, è alla base di qualsiasi grande risultato, di qualsiasi grande campione. Mentre parlavi mi veniva in mente Valentino Rossi, che ha avuto l'umiltà di imparare a guidare come Marquez, poi ancora non è riuscito a batterlo in una corsa mondiale, cioè al titolo mondiale, però il grandissimo campione è anche umile, è anche quello che sa accettare quelli che possono diventare i suoi lati deboli. Grazie Vincenzo. Grazie a voi, arrivederci. Ti abbraccio, Vincenzo Martucci. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati. Ciao. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.